Siamo qui in compagnia di Paolo Fiori Languido. Ciao Paolo. Ciao Claudio, ciao. Allora, cosa sei venuto a proporci quest'oggi? Intanto è bello fare questo duetto davanti a un microfono dopo tanti anni, Eh sì, ma sono passati tanti. l'ultima volta sarà stato nel 1987, Io direi anche prima, anche 86, direi anche 85, 85, sì. quindi stiamo parlando di ben 38 anni fa. Eh sì. Tanto questo è già emozionante. E poi io sono venuto a parlare della Klang Records e della etichetta discografica che ho l'onore insieme a Massimo Bernardi, a Danilo Aleandri e a Francesco Nascimento, che è stato uno dei fondatori dell'etichetta discografica, parlare di questa invenzione partita nel 1988 da una mia idea. Io in realtà avrei voluto chiamarla Centocelle Records, Ma forse era perché un po' troppo. era troppo presto, nel senso che sembrava un nome un po' provinciale all'epoca e che quindi non adatto per un'etichetta discografica indipendente che si occupasse di punk, di rock, di psychobilly, ska, reggae, eccetera. E quindi mi feci convincere, ahimè, a chiamarla Klang Records dal nome dello studio di registrazione di Alessandro Franzi, che è stato per quasi tutti i dischi della Klang Records il nostro ingegnere del suono. Lui aveva uno studio di registrazione nella pineta di Castelfusano, vicino Ostia, che si chiamava Klang im Bunker, in tedesco ovviamente, e per cui da lì adattammo il nome dell'etichetta discografica a Klang Records, che significa semplicemente i dischi del suono. Cioè, Klang in tedesco vuol dire suono, records in inglese in questo caso significa dischi, e quindi mi feci convincere, ahimè, a non utilizzare il nome Centocelle Records, ma quello un po' più internazionale, Klang Records. Beh, che è stata poi una decisione importante perché la Klang Records è conosciuta anche a livello È conosciuta anche a nazionale, livello europeo. europeo. Parliamo ovviamente, per essere seri, insomma, noi siamo di una piccola porzione di mercato, molto piccola, la famosa nicchia, perché noi decidemmo di produrre gruppi musicali romani in particolare che suonavano dei generi musicali, diciamo, non consueti, non usuali. Partimmo nel 1988 con il primo disco, quindi il primo KLG 001. KLG sta per Klang, chiaramente, con Yacht Riviera, che erano purtroppo un gruppo romano che aveva già avuto un'esperienza pregressa di un album, di un EP, Too Hot to Handle, stampato e pubblicato con un'altra etichetta, una piccola etichetta indipendente anche in quel caso. E siccome io mi occupavo, diciamo, come amico del gruppo, cercando di proporre dei loro concerti, non solo a Roma, ma anche fuori, decidemmo di pubblicare questo EP che si chiama My Day e lo registrammo proprio nello studio di registrazione di Alessandro Franzi, quindi a Castelfusano, nel Klang im Bunker. E io te lo devo guardare perché non me lo ricordo ovviamente l'età come di avanza. E quindi gli otto lire che erano composti da Fabio Cicuto al basso e al violino, da Raimondo Mosci alla batteria, da Stefano Orsini alla chitarra elettrica, alla chitarra non, il mio vecchio amico sodale di tante avventure, alla chitarra elettrica e da Alberto Popolo alla voce. È un EP con quattro brani. La parte, la side one è My Day e Come, la seconda parte, la side two, è Psychedelic Girl e Oh the World. Questo lo portammo questo disco insieme a Massimo Bernardi, a Danilo Aleandri e a Francesco Nascimento nelle varie rassegne dedicate alle etichette indipendenti, per cui c'era un festival molti anni fa, stiamo parlando di 32-33 anni fa, a Firenze, che era il meeting delle etichette indipendenti. Lo portammo e provammo, come si fa normalmente, insomma, per una compagnia discografica senza soldi come eravamo noi, però con molta esperienza nel campo musicale, perché eravamo poi in realtà quasi tutti ex DJ o DJ anche. al momento, Massimo Bernardi era anche un giornalista musicale, Alessandro Franzi era ingegnere del suono, Danilo Leandri era un DJ di discoteche, quindi lavorava al Bandiera Gialla e in altri locali, e quindi facevamo un po', diciamo, utilizzavamo un po' di nostre conoscenze per far girare il disco. Il disco, diciamo, ha avuto delle buone recensioni, è stato recensito da alcune riviste musicali, sono riuscito a farli suonare in alcuni punti, però diciamo che purtroppo forse non ha avuto il riconoscimento buono che avrebbe meritato. Ed è un rock cantato in inglese abbastanza interessante, centrato sulla potenza delle chitarre elettriche e soprattutto su un'ottima base ritmica formata da Raimondo Mosci, che era ed è un batterista molto conosciuto, con tantissima esperienza pregresse, da Star Syndrome a tanti altri gruppi romani, a Fabio Ciruto al basso. Ci ascolteremo uno dei brani da questo disco, che si chiama Psychedelic Girl, che in realtà non è un brano di punta del disco, ma è il brano che piace a me, e quindi ascolteremo quello. Questi erano Yacht Riviera con The Psychedelic Girl, tratto dal primo disco, dal primo prodotto della Klang Records, uscito nel 1988, Yacht Riviera My Day. E veniamo al secondo prodotto, sempre nello stesso anno, quindi parliamo sempre del lontano, lontanissimo 1988, e parliamo dei Bandana. Bandana erano un gruppo di Ostia che suonavano un rock influenzato da sonorità americane. Alcuni componenti dei Bandana in realtà venivano da gruppi pregressi anche di tipo punk, ad esempio i Petrolio. Il 26 marzo del 1983 all'Istituto Tecnico Armellini in zona Roma Nord, la redazione musicale di Radio Proletaria, in particolare di Prince Faster e in piccola parte anche del sottoscritto, DJ Master, Massimo Bernardi, eccetera, organizzò il primo festival punk romano, e tra i gruppi presenti in questo primo festival punk romano all'Armellini c'erano anche i Petrolio. Nei Petrolio suonavano alcuni dei componenti dei Bandana, e quindi veniamo a loro. Quindi un gruppo di Ostia che fa un rock molto forte, molto importante, con delle sonorità, almeno questo è quello che diciamo mi arrivava a me, con delle sonorità diciamo di tipo americano. Nei Bandana suonavano, in questo disco i Bandana suonano, Alessandro Nuccilli alla batteria, Simone Caneparo voce, chitarra e armonica, Fabrizio Vannini basso e voce, Enrico Durante chitarre e voce. Questo disco in realtà noi lo pubblicammo e basta, nel senso che non lavorammo sulla produzione, ma una cosa che succedeva all'epoca, con una piccolissima realtà come era la nostra, con pochissime risorse economiche, erano che alcuni gruppi portavano il loro master, e anche in questo caso, nel caso di Bandana, anche la copertina, l'idea grafica, eccetera, e noi lo pubblicammo perché ci era piaciuto il sound, il suono dei Bandana. Da questo disco che porta il loro nome, quindi Bandana, ci ascoltiamo Alcoholic Mistake. You're the best. erano i bandana con Alcoholic Mistake. E veniamo al terzo prodotto della Klang Records, siamo nel 1989 ed è una compilation dedicata ai gruppi romani, si chiama Ehi Roma volume primo, perché volevamo in realtà fare una serie di compilation dedicate al rock romano, poi purtroppo ci siamo fermati al numero uno, non siamo andati avanti. Però in questo caso sono inseriti alcuni gruppi conosciuti a Roma, tra cui aprono il disco Yacht Riviera con il brano Too Far From Me, ci sono i Cyclone con Bates Motel, i Kangling Wop Society Show Me The Things, Files con Bunny in Time, Sacrificio del Miele, Guadagno Netto 5%, gli Accanto con Der Traurige, i Bandana con Black Cat, i Garbages con Desert Bay, i Ned Lud con General Lud's Triumph, Asia Triada, Smooth Street e Icodomen con Psychonite. Spero che la pronuncia sia corretta, sono passati anche in questo caso tantissimi anni e quindi spero di non aver detto cose errate. Sui gruppi dei Sacron parleremo fra un po', perché i Sacron sono stati uno dei nostri gruppi di punta dell'etichetta Klang Records. I Bandana abbiamo appena parlato, gli Yacht Riviera lo stesso, i Garbages erano un bel gruppo, Garage, con una serie di componenti, di musicisti conosciuti nell'area rock romana, i Ned Lud anche, un gruppo diciamo che era conosciuto, poi ci sono dei gruppi che erano all'epoca meno conosciuti come i Sacrificio del Miele, i Gangling Wolf Society eccetera. Da questo disco che uscì nel 1989 e che riporta in copertina una trionfante Anita Ekberg dentro Fontana di Trevi, quindi tratta dal famoso film di Federico Fellini La Dolce Vita. La Dolce Vita, vedo che sei preparato, speravo di coglierti in fragrante. No, cerco di non intervenire, lascio parlare e invece non ti ho colto in fallo. Diciamo che è un disco che è girato, gira ancora, stavo raccontando fuori onda prima a Claudio, che qualche anno fa, non tanti, 2 o 3 anni fa, mi hanno mandato gentilmente da un negozio di dischi di Stoccolma, quindi Svezia, la copertina del disco di Roma proprio che era in vendita. Ho visto anche il prezzo, sono un po' trasecolato, nel senso che costa molto rispetto a quanto costava ovviamente 34-33 anni fa, e però è stata insomma una cosa che mi ha fatto piacere vedere uno dei nostri dischi in un negozio in vendita, in un negozio di dischi a Stoccolma, che è una città che io amo molto, che ho visitato, per cui mi fa piacere. Allora, tornando alla Ehi Roma volume 1 compilation, sarebbe al contrario, Ehi Roma compilation volume 1, io lo dico sempre al contrario, ma va bene, insomma, ci ascoltiamo i Garbages con Desert Bay. Oh, Erano i Garbages con Desert Bay, che era tratto dal loro album Where the Alien Is, uscito per l'arresto cardiaco, se non mi ricordo male, nel 1988, credo fosse l'anno in questione. Veniamo ai sopracitati The Cyclone. Il loro disco è il KLG-004, quindi il quarto prodotto dell'etichetta. Siamo anche in questo caso nel 1989, se la memoria non mi inganna. Sì, siamo nel 1989, ho guardato il disco, quindi ho avuto la conferma che effettivamente era nel 1989. I Cyclone sono quattro giovanotti, ma veramente giovanotti, nel senso che il batterista Roberto Berini aveva all'epoca della registrazione di The Face of the Cyclone Man 17 anni, gli altri componenti Andrea Pesatura alle chitarre e Paolo Camerini al basso ne avevano 18 e il più grande, 19 anni, era Andrea Camerini, con la voce, il frontman del gruppo, della band. Loro furono una vera fulminazione per noi della Klang. Registrarono alla Klang im Bunker a Castelfusano e fu un suggerimento del buon Alessandro Franzi, nostro ingegnere del suono, che mi chiamò e mi disse: Paolo, vieni a Castelfusano, vieni a sentire questi quattro ragazzi che sono una bomba. E io andai di sera, andai e li ascoltai e rimasi colpito, nonostante loro facessero un genere musicale che non era tra i miei preferiti, perché loro facevano psychobilly. Io all'inizio non capivo che cosa fosse lo psychobilly, ero ignorante, e chiesi a loro e gli dissi: che cos'è lo psychobilly? E loro mi dissero: ascolta questo brano. E mi fecero ascoltare il brano The Devil is Knocking on My Coffin, e praticamente c'era il bassista Paolo Camerini che aveva il contrabbasso, una chitarra elettrica, la batteria e la voce, ed erano tutti e quattro con queste banane in testa, quindi questi capelli fatti appunto a ricordo della moda rockabilly degli anni 50, rock and roll degli anni 50, e loro praticamente partivano da un sound di rock and roll anni 50, ma lo praticamente suonavano alla velocità, a una velocità atomica. Praticamente un rock and roll anni 50, un Bill Holly, un Elvis Presley fatto punk, quindi fatto a velocità supersonica, cantato con molto impeto, con molta forza, e devo dire l'effetto finale era davvero stravolgente. Tra l'altro loro erano molto bravi dal vivo, perché sul palco facevamo delle scenette molto simpatiche, e quindi noi decidemmo di pubblicare il loro primo album, che era una coproduzione anche in quel caso, per cui il loro master con la nostra pubblicazione, quindi col pagamento della SIAE, la grafica, pagamento della grafica, della copertina, eccetera. Questo disco noi rimanemmo sorpresi, perché fu il disco che vendette di più, perché aveva un piccolo pubblico molto affezionato, in particolare in Europa, in Germania, in Olanda, in Francia, e noi fummo un po' sorpresi, perché era un fenomeno che, almeno parlo per me, non conoscevo molto bene, e andammo in tournée. Soprattutto Massimo andò in tournée con loro, con Alessandro Franzi e con un mitico Furgone. Ci sono tantissimi racconti da fare, ma non li farò stavolta, su questa tournée mitica in Francia, in Olanda e in Germania dei Cyclone, la loro prima tournée, accompagnati dagli zii più grandi, quindi da Massimo Bernardi e da Alessandro Franzi, e comunque ebbero un buon successo anche in Europa in particolare. E noi siamo riusciti a vendere, non dico tantissime copie, però diciamo, siamo andati oltre le 1000 copie, che all'epoca per noi, per una piccolissima realtà come la nostra, insomma, era un bel risultato. E soprattutto riuscimmo a contattare una serie di etichette europee specializzate nel rock and roll e nello psychobilly, che ovviamente non conoscevamo, tipo la Nervous Records, che è un'etichetta inglese. Per cui con loro, con i Cyclone, noi facemmo un piccolo passo in avanti a livello di etichetta, come piccolissima notorietà. Da questo album, che noi abbiamo ristampato per il 30° anniversario nel 2019, giugno del 2019, abbiamo fatto anche una presentazione in un locale al Pigneto con un concerto dei Cyclone a 30 anni di distanza, ci ascolteremo Bates Motel, che è chiaramente dedicato al famoso film di Alfred Hitchcock, Psycho. but I love it too much. The time I can say we just the same thing. The girl on my queen, she's got here tonight. My mama told me don't waste your time. She's got blonde hair, and she's so fine. The room number one is the one for tonight. Don't worry, baby, don't be afraid. I want to look you while you sweep yourself, yeah. Oh baby, I want you. Oh baby, let me see. Abbiamo ascoltato i Cyclone con Bates Motel, quindi tratto, come dicevo prima del brano, ovviamente tratto ispirato al film di Hitchcock Psycho. Veniamo al quinto prodotto della Klang Records, siamo ancora nel 1989, in questo caso cambiamo genere, cambiamo stile, quindi passiamo dallo psychobilly dei Cyclone al post-punk, alla musica elettronica un po' più dark, con sonorità un po' più oscure, di Indie Ferne, spero che la pronuncia mia sia più o meno corretta, e in tedesco significa in lontananza. L'EP si chiama Misoginia ed è il terzetto, il trio musicale formato da Alessandro Franzi, che è il nostro ingegnere del suono, oltre che il proprietario del Klang im Bunker dove è stato registrato il disco, da Oliver Fonderman, che è il cantante della band, e da Marco Ronci alle chitarre. È un disco che suona ancora bene, almeno alle mie orecchie, ogni tanto lo riascolto e devo dire che ha ancora delle sonorità molto interessanti, ma anche la qualità della registrazione appare a molti anni di distanza ancora lodevole, ancora potente. Anche questo disco ovviamente ha avuto maggiori riscontri all'estero più che in Italia, in particolare in Francia, dove ha avuto dei passaggi, degli ascolti nelle radio private anche piccolissimo, parliamo veramente di cose diciamo non grandi, piccole, di vendita di dischi. Thank you. erano gli Indiferne con il brano Indiferne, quindi la canzone che dà in qualche modo il titolo al nome della band in questo caso. Passiamo al sesto prodotto della Klang Records, siamo ancora nel 1989, KLG 006, questa volta è un 45 giri di un artista che si chiama Bruno De Angelis con nome d'arte Flu. Il 45 giri è composto da due brani, Fiammelle e Strade Separate. È uno stile, un genere new wave, un po' diciamo con sonorità anglosassoni, molto godibili, che a me, devo dire, all'epoca piacque molto e che ha costituito il nostro sesto prodotto. Ci andiamo ad ascoltare Fiammelle da Flu. Fiammelle, abbiamo ascoltato, e veniamo alla KLG 007, che è il nostro settimo prodotto. Siamo nel 1990 e siamo con una delle band romane più importanti di musica ska. Anche in questo caso noi cambiamo nuovamente stile e genere musicale per le nostre produzioni e veniamo a una band molto importante nell'ambito romano dello ska, composta da Gianni Del Popolo, chitarre e voci, Gabriele Cavallari, tromba e voci, Gianni Colaiacomo, basso basso e voce baritono, Renato Oliva alla batteria e alle percussioni, Sandra Giallattini alle voci, Enrico Cioccolini voce principale e tastiere. Questo è davvero ancora un gran bel disco ed è stata, almeno per quello che mi riguarda, una delle mie maggiori soddisfazioni in campo discografico, perché riuscimmo ad avere, a vendere la licenza del disco, che si intitola At Last, quindi finalmente, alla Unicorn Records di Londra, quindi una delle etichette specializzate inglesi in ska, reggae music eccetera, che amò questo disco e quindi ci chiese la licenza e lo pubblicò in Inghilterra e in Europa per la sua per il suo catalogo Unicorn Records. Da questo album ci ascoltiamo, anche in questo caso non forse il brano di punta del disco, ma il brano che piace al sottoscritto, e quindi City Raindrops, Strange Fruit. Okay. Erano gli Strange Fruit con City Raindrops. E a proposito della licenza venduta dalla Klang Records alla Unicorn Records di Londra, c'è da dire che uno dei brani di questo disco, Over the Border, fu inserito in una compilation della Unicorn Records accanto a gruppi ska reggae molto importanti della scena inglese, e quindi anche questa, diciamo, una grande soddisfazione soprattutto per la band, ovviamente in qualche modo anche per noi della Klang. Rimaniamo per l'ottavo disco prodotto dalla Klang Records nel campo dello ska. In questo caso loro sono i Mobsters, con il disco che porta il loro nome, il disco. E qui, insomma, diciamo che ci sono, per quello che mi riguarda, dei ricordi molto importanti che sono legati in particolare al bassista del gruppo, Emilio Gregori, che era già stato anni prima il bassista dei Fan, gruppo OI o gruppo Skinhead, per me molto importante, dei primi anni 80. E Emilio, che purtroppo non c'è più, che quindi in qualche modo ogni volta che io ascolto questo disco, diciamo che il pensiero va inevitabilmente a lui. Il disco fu prodotto da Enrico Cioccolini, che è il leader, il cantante degli Strange Fruit, che ha messo la sua mano importante su questo album. Altro ricordo purtroppo, diciamo, doloroso riguarda la cantante della band, Carola Doricchi, anche lei purtroppo prematuramente scomparsa, e quindi anche lei va, insomma, il mio ricordo affettuoso. I Mobsters erano composti da Michele Ferrarese alla voce, Carola Doricchi alla voce, Cristian Franco alle chitarre, Emilio Gregori al basso, Marco Elefante al sax, Maria Grazia Ciaccio all'alto sax, Roberto Corsi alla batteria. È un disco di ska, di divertente ska, di musica allegra da ballare. È un disco che ricordo con molto piacere. Da questo album ci ascoltiamo Stepping Out Peppe. erano i Mobsters con Stepping Out Pepe. Veniamo al nono disco della produzione della Klang Records, siamo nel 1991 in questo caso, e siamo ancora con i Cyclone. Quindi i Cyclone sono il loro secondo album, l'album si chiama Cyclonic Zone e vede un cambiamento della loro musica, nel senso che continuano ancora a suonare, a proporre il loro psychobilly, ma in questo caso lo psychobilly va ad abbracciare il crossover, quindi c'è un'evoluzione musicale della band che è sempre composta da Andrea Camerini alla voce, Andrea Pesaturo voce e chitarra, Paolo Camerini basso e voce, Roberto Berini alla batteria ed è vede l'ingresso di Massimo Diodallevi al sax, alle tastiere e alle voci. E questo album ha anche come novità nel percorso musicale della band anche un brano italiano che si chiama Non voglio essere come te, ispirato dal film della Disney The Book of the Jungle. Da questo disco ci ascoltiamo Pinocchio Goes to the Cyclonic Zone. Erano i Cyclone con Pinocchio Goes to the Cyclonic Zone. Come avrete avuto modo di ascoltare, c'è già un cambio insomma di sonorità molto particolare, un disco importante che vede una evoluzione nel percorso della band romana. Siamo al decimo disco prodotto dalla Klang Records, siamo ancora nel 1991, è un 45 giri, anche qui c'è un cambio di stile, di genere musicale per quello che riguarda le nostre produzioni. Il musicista prodotto si chiama Patrick Zani, Love Supreme, il titolo del disco I Met a Girl, e la cosa importante, almeno per me, che me ne sono occupato in prima persona di questa produzione, l'incontro con Ernesto De Pascale e con Frank Gazzara. Ernesto De Pascale, anche qui un pensiero affettuoso alla sua memoria, non c'è più anche lui, è stato un protagonista della musica italiana, dei festival indipendenti, era un toscano che veniva spesso a Roma, è stato un grande amante del blues e di produzioni musicali alternative, anche di riguardo i festival musicali, la radio, insomma, un personaggio importante di spessore. Frank Zara, un musicista ancora attivo, molto importante anche lui. Questo 45 giri, anche qui dicevo, con un cambio di genere, di stile, di sonorità, va più sulla dance, quella che negli anni 90 si chiamava la dance intellettuale, tra virgolette, nel senso una dance diciamo un po' più pensata, qui con Patrick Zani che oltre alla voce si esibisce anche nello strumento del sax, quindi suona il sax in maniera molto egregia, e questo era il nostro decimo prodotto. Da questo disco ci ascoltiamo la title track I Met a Girl. Her body shaking on a Saturday night. Red lips warm you up till your fire stops burning. Girl, you're so good. When I see you moving by my side, oh, you're so fine. When I see you dancing in my eyes, when I see you moving on the floor, oh, you're so fine. When I see you dancing in my eyes, I met a girl, she was like that, really happy to free her soul on fire. I met a boy, he was cold by her smile, really sad not to touch her. Free. era Patrick Zani con Amet Girl, 1991. A questo punto la Klang Records si ferma, si arrende alle leggi del mercato discografico, non avendo ottenuto il successo dei propri dischi, quello che sperava, e le difficoltà economiche sovrastano la passione e la volontà di produrre dischi e gruppi musicali interessanti, alternativi a quella che era la discografia imperante. La Klang Records si ferma. Passeranno molti anni, arriviamo al 2019, al 30° anniversario del primo album dei Cyclone, The First of the Cyclone Men, che dà la possibilità e la voglia di ripubblicare, di ristampare il disco uscito nel 1989, però con due bonus tracks tratte da un concerto dal vivo dei Cyclone. Le bonus tracks, quindi i due brani che non erano all'interno della pubblicazione originale del 1989, si chiamano Kick Off the Jams, che è una cover degli MC5, gruppo rock degli anni 60 di Detroit, e Elephant Stomp, dal vivo, che è invece un brano dei Cyclone. Da questo album, che è per il momento l'ultimo album prodotto dalla Klang Records, ci ascoltiamo proprio la cover Kick Out the Jams. Erano i Cyclone nella pubblicazione del 30° anniversario del loro album The First of the Cyclone Men, con una delle due bonus tracks contenute in questa pubblicazione uscita nel 2019, che era appunto Kick Out the Jams degli MC5. Questo è per il momento l'ultimo disco prodotto dalla Klang Records. A questo punto vi do appuntamento, ci diamo appuntamento. Sì, certo, ringraziamo intanto Paolo Languido Fiori, che è stato qui con noi che non solo è stato uno dei fondatori della Klang Records, è stata una voce importante delle radio locali romane, tra cui Radio Proletaria, e attualmente è uno dei... Attualmente sono su Spazio Radio. Esatto. Attualmente sono proprio su spazioradio.it, anche se sto state ascoltando solo delle selezioni, solo tra virgolette, delle selezioni musicali. Io, insomma, che sono, ascolto la radio in macchina, direi delle grandi e ottime selezioni musicali e qualche mio jingle, qualche mio annuncio in cui vi invito, vi esorto ad ascoltare la radio. Per il prossimo disco ci vedremo prossimamente, non so quando. Sì, speriamo presto. Speriamo presto, vediamo un po'. Sicuramente ci sentiremo su spazioradio.it senza dubbio, anche con altre cose che non riguarderanno solo la musica, ma anche dei piccoli estratti che io leggerò, pur non essendo un attore, ma essendo, insomma, un semplice lettore, dei brani tratti da alcuni libri che io amo in particolare, che leggo, che ho letto e che proporrò alcuni brani a voi ascoltatori. Arrivederci alla prossima. Arrivederci e buon ascolto con Spazio Radio.